pensato mai a una canzone senza ispirazione? Hai pensato mai ad un bimbo senza nome? È un po' come il sesso senza amore. E questa mia canzone non durerà per ore, e chiede solo di esprimere a fondo il mio cuore. Non è come la storia di questo mondo che fa rumore. E dopo poco voltata la pagina, questa storia muore. Ci hai pensato mai a una canzone senza ispirazione? Ci hai pensato mai ad un bimbo senza nome? È un po' come il sesso senza amore. È un po' come dire ti voglio bene senza le parole. Ma adesso basta, mi fermo nel candore di questo mio cuore che vuole donarti tre parole. E le dirò piano piano mentre trema la mia mano, io ti amo. No.